scrivere di fantasie, sognare una volta ancora, togliere malinconia, allontanarsi ora, tuffarsi nei ricordi e poi vivere strane primavere, cercare se eravamo noi o bagliori di una chimera. Capire a volte è molto strano, cercato e cosa abbiamo avuto, cosa ci è rimasto in mano, ma è storia quel che abbiamo vissuto, sorriso oppure abbiamo pianto, tante volte stati confusi, credere serve intanto a non essere delusi. Riflessi del tempo andato, momenti che non ti scordi, ora qui sulla mia strada, adesso è qualche ruga in più, spiegarci qualche cosa e poi dire in fondo cosa sia. Forse non è fantasia specchiarmi nei tuoi occhi ancora, tuffarmi nella poesia, rinascere ogni ora. Forse nel passato e poi a caccia di primavera abbiamo sbagliato e noi delusi nelle nostre sere. Sentire adesso è molto strano, capire cosa abbiamo dato, prendendoci per la mano, sentito ciò che abbiamo trovato, riso dopo avere pianto, urlato per aver creduto, la vita fosse rimpianto per ciò che si era perduto, riflessi del tempo andato. Saranno altri ricordi qui con te sulla mia strada, ancora qualche ruga in più, spiegarci cosa siamo noi qui nel tempo in compagnia. Riflessi del tempo andato, momenti che non ti scordi, ora qui sulla mia strada, ancora qualche ruga in più, spiegarci cosa siamo noi qui nel tempo in compagnia.